si è scoperto che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo. È molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società. Da poco tempo fa le applicazioni della scienza. Il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia. La libertà di poterlo ridistribuire e modificare. La cultura scientifica, voglio dire, è qualcosa di immenso. Al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. E sono le 10.30 di questo sabato 22 novembre 2008 e benvenuti ad un'altra puntata di Caccia al fotone. (33) 180 94 94 per inviare un sms e il solito e noto cacciafotone at radiocittafugico.it per inviare una mail. Sito di riferimento www.cacciafotone.it. E oggi parleremo di fisica delle particelle, o meglio di una particella ghost prodotta forse presso il Fermilab negli Stati Uniti. L'articolo pubblicato su Arxiv si intitola Study of Multimuons Event. E per parlare di tutto ciò ne parleremo con Tommaso Dorigo, ricercatore presso l'INFN di Padova. Buongiorno Tommaso. Buongiorno a tutti. Dovresti spiegare in 100 parole che cos'è quest'articolo e che cosa dice. Vabbè, vediamo. Si tratta di un risultato nuovo, controverso per certi aspetti, non ancora chiaro, ma estremamente intrigante, che è stato ottenuto dalla collaborazione CDF, che opera all'acceleratore Tevatron di Chicago. CDF, che lo ricordo, ha una storia illustre, 25ennale, che ha anche scoperto il quark top nel 1994, per esempio, ha scoperto fra le 100.000 miliardi di collisioni protone-antiprotone che ha finora studiato, un campione di eventi che potrebbero rappresentare il primo segnale dell'esistenza di fisica oltre il modello standard. E si tratta di eventi che contengono molti muoni, diremo poi cosa sono i muoni magari. Esatto. Le caratteristiche di questi eventi, queste collisioni, sembrano indicare che questi muoni sono stati prodotti dalla disintegrazione di una particella nuova, qualcosa di ancora mai studiato, che potrebbe aprirsi le porte verso un mondo del tutto nuovo. E di questo e di molto altro ne parleremo nel proseguo della trasmissione, Tommaso. Io ti lascio in diretta, ci andiamo a sentire un primo pezzo degli Amnes, un gruppo francese indie rock che produce musica Creative Commons. For me to know who I am. but I opened my eyes. I saw your world. I fell from the cross and I lost faith. The time has come for me to know who I am. The time has come for me to know who I am. Bentornati a Caccia al Fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. Quella che vi state ascoltando si intitola Jesus 2.1 ed è degli Amnes. Ovviamente in questa trasmissione si parla di scienza e quindi quest'oggi parleremo di fisica delle particelle. Tutti pronti? Si va a cominciare. È stata forse scoperta una ghost particle e quindi... Presentiamo Tommaso Dorigo, ricercatore presso l'INFN di Padova. Buongiorno Tommaso. Buongiorno a te. Senti Tommaso, allora, prima di tutto questo esperimento è stato fatto presso il Tevatron. Diamo un attimo una descrizione del Tevatron, visto che attualmente è l'unico acceleratore di particelle che è in funzione per via del fatto che LHC è spento per via di lavori di manutenzione. Beh, non è l'unico, ma è il più potente e non lo sarà ancora finché LHC non comincia a funzionare davvero. Il Tevatron è un grande acceleratore, un sincrotrone per protoni, ha un diametro di 2 km. Che cosa vuol dire sincrotrone di protoni? È un acceleratore in cui i protoni vengono lanciati in un'orbita circolare e accelerati attraverso delle cavità a radiofrequenza e fatti curvare attraverso con dei magneti molto potenti. Senti, c'è un motivo per cui il percorso è circolare? Sì, è circolare perché tu vuoi poter usare queste cavità che danno un calcetto ai protoni ogni volta per farli accelerare sempre di più, poterli usare tante volte, invece di poterli usare solo una volta, come se la traiettoria fosse lineare, in una traiettoria circolare ogni volta che il protone passa gli dai un calcetto e li acceleri fino a velocità, praticamente la velocità della luce, fino a un'energia la più alta mai raggiunta. Senti, al momento ci sono due grossi esperimenti, il D0 e il CDF, vero? Sì, sono due esperimenti molto simili, fanno la stessa fisica con strumenti leggermente diversi, sono due collaborazioni di 500 fisici ciascuna. E tu lavori presso il? Io collaboro con l'esperimento CDF, uno dei due, collaboro anche con l'esperimento LHC, ma per adesso CDF ha un sacco di dati che sta analizzando. Senti, quindi cerchiamo di spiegare che cos'è questo esperimento fatto al Tevatron, perché la blogosfera si è animata per via di questo esperimento. Tu hai pubblicato sul tuo blog dorigo.wordpress.com l'articolo che è stato pubblicato, anzi il link l'articolo che è stato pubblicato su Arxiv. Spiegami un attimo che cosa dice questo articolo, perché obiettivamente è complesso da leggere per i non addetti ai lavori. Sì, è un articolo complesso anche per gli standard degli articoli di CDF, perché si tratta di un'analisi molto, diciamo, un'analisi nata parecchio tempo fa, perché CDF funziona da 25 anni. I primi dati che hanno evidenziato qualcosa di anomalo secondo gli autori di questo studio, che sono un sottoinsieme della collaborazione CDF, già contenevano qualcosa di anomalo nei dati raccolti del 1995 e già allora avevano c'era stata una controversia, avevano cercato di analizzare questi eventi un po' anomali che avevano messo in evidenza. E poi adesso nel RAN 2, che è cominciato nel 2002, hanno fatto un lavoro molto lungo e faticoso che li ha portati a mettere in evidenza un campione di eventi, appunto ghost, come dicevi tu. Praticamente si tratta di eventi che contengono dei muoni, che sono, diciamo, il muone è un leptone, è il fratello ciccione dell'elettrone, esatto, una particella sì, che non esiste nella vita di tutti i giorni, viene prodotto, per esempio noi siamo attraversati da raggi cosmici che contengono questi muoni, ma non fanno parte della materia normale, perché decadono come decadono le particelle radioattive, ma in tempi molto brevi. Ti fermo un attimo, perché si sono creati dei muoni e non altre particelle? Se parliamo di raggi cosmici, vengono quando arrivano protoni dall'universo, dal cosmo, e incidono sull'atmosfera e creano una cascata di particelle, fra le quali si trovano anche a volte dei muoni. I muoni sono particelle molto penetranti, penetrano la materia e quindi arrivano fino a noi, fino al livello del terreno, molto più frequentemente delle altre particelle prodotte negli strati alti dell'atmosfera. Ok, ritorniamo all'esperimento. Stavi parlando del fatto che all'interno di questo esperimento sono stati rilevati questi muoni, e spieghiamo un attimo esattamente che cosa è stato rilevato, giusto per dare il via alla prossima parte in cui descriveremo effettivamente l'esperimento. Praticamente in queste collisioni raccolte da CDF sono stati osservati degli eventi che contengono dei muoni che non sembrano provenire dal vertice dell'interazione, cioè sembrano essere il risultato del decadimento di un oggetto massivo che non si conosceva, cioè c'è una produzione di una particella ignota che poi dopo una certa quantità di tempo decade, produce questi muoni e noi vediamo questi muoni nel nostro rivelatore. Devo dire, perché non vorrei confondere nessuno, che questa è solo una possibile fantasiosa interpretazione di quello che si vede. CDF in effetti non dice che vede una particella nuova, dice che vede degli eventi che non riesce a spiegare con la fisica standard e che sta continuando a investigare. Questo, infatti, i più cauti in realtà siete proprio voi che avete pubblicato l'articolo. In realtà tutta la blogosfera sta discutendo, ma voi siete abbastanza cauti e avete detto: ragazzi, noi abbiamo notato questo e non sappiamo perché. Assolutamente, io poi sono uno scettico blu particolarmente, quindi io penso che si tratti di un processo del tutto non esotico, qualcosa che non abbiamo capito nel nostro rivelatore, ma continueremo a studiarlo. Però comunque il fatto che ci sia la possibilità che si tratti effettivamente di un fenomeno esotico nuovo rende questa cosa estremamente intrigante. Senti Tommaso, allora ci lasciamo con un pezzo musicale, preparati perché adesso andiamo veramente a descrivere l'esperimento. Prima di lasciarci però con un pezzo musicale che è sempre degli Amnes e si intitola Ride, ti faccio sentire un pezzo di Croz in cui c'è l'imitazione di Zichichi. Se noi acceleriamo troppo le particelle, ci levano dei punti sulla patente, ecco la scienza. Torniamo in diretta a Cacciafotone perché oggi c'è veramente molta carne al fuoco. Vi disegnalo il numero di SMS 333 180 94 94. Questa è Caccia al Fotone. Al telefono abbiamo sempre Tommaso Dorigo, ricercatore presso gli NFN di Padova, con un esperimento di cui stiamo parlando proprio oggi. Tommaso, prima hai sentito un pezzo di Zichichi che era un fisico delle particelle. Crozza è un grande, lasciami mettere un cappello alla Crozza Italia, perché io so che Zichichi è un fisico delle particelle e anch'io sono un fisico delle particelle e trovo inquietante la relazione. Vabbè, comunque lasciamo perdere Zichichi, dai. Senti, all'interno di questo esperimento sono stati sparati un protone e un antiprotone. Si sono generati dei muoni, però la quantità di muoni che è stata generata è maggiore di quella che ci si aspettava. E questa è la sintesi. Effettivamente questo è uno degli aspetti, no? In tutte le collisioni protone-antiprotone, che sono tantissime, si vanno a selezionare eventi che hanno una coppia di muoni, almeno due. Se selezioni eventi con un solo muone non ce la fai a raccogliere tutti quelli che vorresti studiare. Allora prendi questi eventi con due muoni e vai a guardare le loro caratteristiche. Allora, il campione che dicevamo GHOST, cioè questo campione di eventi che è stato evidenziato da questi autori, si chiama così per un motivo particolare, perché normalmente gli eventi che hanno muoni che sembrano essere generati a una distanza di parecchi centimetri da dove ha avuto luogo la collisione vengono scartati, in quanto si pensa che essi non siano stati misurati molto bene nelle parti più interne del rivelatore, che appunto ha strati sensibili anche a pochi centimetri dal punto proprio delle collisioni protone-antiprotone. Allora questi eventi di solito vengono scartati, invece gli autori hanno detto andiamo a vederli questi eventi perché potrebbero essere interessanti, e hanno fatto una sottrazione, cioè hanno studiato bene gli eventi con muoni che vengono proprio tracciati fino al punto della collisione, e sottratti questi, per sottrazione hanno evidenziato un campione di eventi con muoni che non ci si aspettava che fosse lì, perché non ci sono motivi per avere dei muoni che nascono, diciamo, diversi centimetri oltre il punto della collisione. I diversi centimetri oltre il punto della collisione è il cosiddetto parametro di impatto dei muoni, vero? Sì, quando tu prolunghi all'indietro la traccia del muone verso il punto della collisione, non va dritto, non arriva al punto della collisione, ma ha una distanza, che questa distanza si chiama parametro di impatto, diciamo. È come se due macchine si scontrassero e i pezzi prodotti dallo scontro delle due macchine non partissero direttamente dal punto di scontro. Uno potrebbe fare questa analogia: hai due macchine che si scontrano, se tu osservi questa collisione vedi pezzi che volano in tutte le direzioni, però questi sembrano provenire dal punto dove ha avuto luogo l'impatto. Invece immagina di avere, non lo so, vedi dei pezzi di vetro, diciamo, il vetro è particolare, il materiale sono i muoni per esempio, ma li vedi originare come se venissero da un punto 10 metri distante dal punto dove si sono scontrate le due macchine. Sì, allora ci sono. Fai l'ipotesi che ci sia stato un vaso di cristallo che era contenuto in una delle due macchine, che è volato intatto fino a 10 metri distante, poi si è rotto perché, non so, ha fatto qualcosa, e i pezzi di cristallo, non so, volano via e sembrano provenire da un punto 10 metri distante. Questa è, diciamo, la fenomenologia. Questo sembra essere quindi una particella che produce questi muoni in un punto distante dal punto dove ha avuto luogo la collisione originaria. Quando è cominciato veramente l'analisi di questi dati? Perché so che ci stai lavorando veramente da tanto tempo. Ma sì, perché diciamo CDF funziona da 25 anni, è l'esperimento più longevo della fisica delle particelle in assoluto, anzi potremmo dire l'esperimento di fisica più longevo in assoluto. Ma questi dati già nel 1995 gli autori principali di questo studio, che sono degli italiani, avevano... perché questo esperimento CDF è una collaborazione di diversi paesi, americani, italiani, giapponesi, molti paesi collaborano. Questo gruppetto aveva studiato questi eventi già diciamo da 10 anni fa a questa parte, e aveva trovato un eccesso di eventi con elettroni, che sono i loro fratelli più magri, ecco. Però questi eventi erano pochi, non si riusciva a dire molto, perché c'era un problema di statistica, diciamo. Quando tu vedi un eccesso di eventi, se questo eccesso non è molto grande, dici, beh, vabbè, potrebbe essere una fluttuazione statistica. Allora loro hanno studiato in maniera più dettagliata gli eventi che sono stati raccolti poi, quindi a partire dal 2002 si sono raccolti 40 volte più dati, perché la macchina sta funzionando molto bene adesso e ha aumentato la propria, quello che si chiama luminosità, cioè il numero di protoni e antiprotoni che riesce a far scontrare ogni secondo, quindi produce più dati e adesso questo eccesso di eventi è diventato estremamente significativo e le caratteristiche sono state messe in evidenza in maniera molto più dettagliata, perché se tu hai più eventi puoi studiarli meglio. Senti, all'interno dell'articolo molte volte viene detto che questo non è coerente con le previsioni. Cosa vuol dire che non è coerente con le previsioni? C'era una previsione standard in cui si sarebbero formati, non lo so, tot muoni, e questa previsione standard che cos'è esattamente? Beh, il modello standard che appunto descrive la fisica fondamentale delle interazioni tra particelle subatomiche non impedisce alla creazione di muoni in collisione tra protoni. Allora, i muoni possono essere prodotti per una serie di processi del tutto standard, diciamo, che noi conosciamo bene. Per esempio, uno dei bosoni scoperti da Rubbia, il bosone Z, 1983, che ha causato il premio Nobel a Rubbia, è una particella che quando decade produce due muoni di alta energia e questi si vedono molto bene nel nostro rivelatore. Quindi noi sappiamo che quando facciamo scontrare protoni e antiprotoni, come ha fatto Rubbia nell'83, possiamo produrre delle Z0 e le Z0 producono due muoni. Però questi muoni non hanno parametro di impatto, perché la Z0 muore, si disintegra esattamente nel punto dove viene creata, cioè dalla collisione protone-antiprotone. Non vedi nessun parametro di impatto. Quando tu hai un parametro di impatto molto grande, significa che questi muoni sono stati prodotti da qualcosa che ha avuto il tempo di andarsene via dal punto della collisione, viaggiare qualche centimetro, 10 centimetri anche. Questa è la cosa un pochino particolare. Allora, ci sono questi muoni sembrano provenire da un punto molto lontano dalla collisione protone-antiprotone. Allora, o sono il prodotto di un decadimento di un corpo che ha viaggiato e quindi questo corpo non è conosciuto, perché non si conoscono particelle che viaggiano per diversi centimetri e sono estremamente pesanti, diciamo, perché le caratteristiche di questi muoni lo sembrano indicare, oppure questi muoni potrebbero essere falsi, cioè il nostro rivelatore identifica queste particelle in maniera molto dettagliata seguendo la traccia che esse lasciano di ionizzazione dentro il rivelatore. Però diciamo che è un po' difficile pensarlo, ma potrebbero essere state delle particelle che non sono muoni, ma che hanno lasciato un segnale simile. E questo è molto difficile da studiare, perché si tratta di processi in cui devi andare proprio nel dettaglio quello che succede. Ecco, e per questo questa analisi è un po' complicata, perché va un pochino a scavare nel fango, va a scavare in eventi che contengono molto background, noi lo chiamiamo fondo, processi che non sono un segnale puro. Se tu prendi muoni con grande parametro di impatto, sei costretto a andare a mettere le mani nel fango di particelle che potrebbero contenere fondo di non muoni, diciamo. Però metti anche in evidenza questo eccesso. Ecco. Tommaso, so che il parere ha poco valore in ambito scientifico, ma qual è il tuo parere? Che si è creata una nuova particella oppure che è un errore di background? Intanto direi che non è un errore, nel senso che l'analisi è molto rigorosa, però il fatto che l'analisi non sia sbagliata, secondo me, non vuol dire che per forza questi fenomeni siano esotici. Io credo che è talmente enorme la possibilità che stiamo effettivamente vedendo qualcosa oltre il modello standard, che vi ricordo è lì da 40 anni e ha respinto ogni attacco, e la porta che ci aprirebbe verso un mondo del tutto nuovo di particelle supersimmetriche, per esempio, se questa è la teoria che ci aspetta dietro la porta, è estremamente entusiasmante per un fisico. Io comunque rimango del parere che si tratti di un background, di qualche processo di fondo non ben compreso e che comunque vale la pena di studiare, perché capirlo ci permette di capire di più delle misure che abbiamo anche già fatto. Noi abbiamo pubblicato diverse misure con questi muoni e alcune di esse andranno riviste, per cui CDF ha pubblicato una cosa preliminare, cioè diciamo che è uno studio non completo, perché ha messo le mani avanti e ha detto: guardate che noi ci siamo resi conto che abbiamo degli eventi in più che non riusciamo a spiegare, questa componente ghost. E questa potrebbe avere un impatto sulle misure anche già prodotte, per cui noi continuiamo a studiare, potrebbe essere nuova fisica, potrebbe non esserlo, però comunque state attenti e quindi ha pubblicato questo articolo. Io credo che la probabilità che si tratti di nuova fisica è dell'ordine dell'1%, se mi fai dire una stima, però è un 1% estremamente interessante, capisci? Perché è l'unico 1% in giro per il mondo da molto tempo. Tommaso, tieniti in caldo perché mando un altro pezzo musicale, poi torniamo in studio per le considerazioni finali, e cioè per discutere il fatto che sulla blogosfera di questo se ne parla veramente tanto, però in Italia, stranamente, di questo non se ne parla proprio. D'accordo. Il fusone è una particella subatomica piccola che non si vede, ma pesa 5 kg e 4 etti, e non riusciamo a trovarla. Perché invece di cercare il fusone non vi cercate un lavoro? Torniamo ancora in studio con Caccia al Fotone. Arriva un messaggio al 33 180 94 94, è Gianni che ci chiede: di questo non ne ho sentito parlare in televisione, non l'ho letto sui giornali, è tutto vero? Tommaso, a te la risposta. Beh, certamente è tutto vero, però i giornali sono sensibili a un certo tipo di canali di produzione, diciamo, di informazione. Finché un articolo rimane sull'archivio di preprint, viene mandato alle pubblicazioni scientifiche, se ne parla nella blogosfera, se ne parla nei corridoi dei dipartimenti di fisica, non è detto che arrivi agli onori della cronaca. Potrebbe essere comunque un risultato di grande importanza, ma ancora, diciamo, in Italia almeno è vero, come hai detto tu, non se ne è parlato abbastanza. In realtà è stato discusso in un sacco di riviste, anche giro per il mondo. La maggior parte delle riviste scientifiche, diciamo, di divulgazione, Physics World, Nature, New Scientist, ne ha parlato, ma anche riviste come, so per esempio, Russian Newsweek ne ha parlato, e insomma, ma sì, comunque, diciamo, forse non è ancora maturo il tempo di parlarne nei media. E poi c'è stata anche questa indigestione con LHC, diciamo, con l'esperimento al CERN di Ginevra, che a settembre è cominciato e è stato pubblicato dappertutto. Forse questo anche gioca un ruolo, diciamo. Senti, se non si è parlato sui giornali, si è parlato però nella comunità scientifica. In effetti sulla blogosfera, almeno sui blog scientifici, non si fa altro che parlare di questa scoperta. Qual è stata effettivamente la reazione della comunità scientifica quando si è trovata davanti a qualcosa che per la prima volta non si poteva inquadrare nel modello standard? Ma ci sono state moltissime reazioni. Allora, sicuramente su internet si ha subito un responso, l'interesse delle persone, degli addetti ai lavori, dei fisici teorici che sono interessati a produrre modelli che guardano oltre il modello standard. Sono ovviamente, loro hanno subito guardato a questo risultato come a un potenziale nuova fisica da spiegare, da catalogare in un modello. Sono subito apparsi pubblicazioni su appunto sull'archive che cercano di inquadrare il potenziale segnale di nuova fisica visto da CDF nell'ambito di diverse teorie. C'è chi cerca di ascriverlo alla teoria delle stringhe, c'è chi cerca di dire che è un certo tipo di supersimmetria. Questo lavoro è in corso, diciamo, i teorici sono andati in una sorta di feeding frenzy, no? Sono lì a cercare di mangiarsi questo risultato, cercare di digerirlo e di farlo fruttare, diciamo, per la loro teoria favorita. Ma se ne è parlato molto anche nei blogs, se ne è parlato molto tra i fisici che frequentano appunto internet attraverso i blogs e altri forums, cose del genere. Diciamo, c'è una reazione di scetticismo, che è giusta ed è molto sana, perché in effetti il claim, l'affermazione che fa CDF è straordinaria. E nessun modello, diciamo, tutti pensano alla supersimmetria come quello che ci sarà dietro questa porta che verrà aperto però da LHC, il nuovo esperimento 5 volte più potente, 7 volte più potente, che comincerà fra qualche mese al CERN, però invece questa cosa ha trovato i fisici teorici un pochino con le braghe calate, diciamo. E peraltro allora, sono usciti degli articoli in cui si prova a smontare l'articolo, vero? È successo anche questo, è successo che alcuni fisici teorici un pochino imbeccati, diciamo, da qualche collega scettico del mio esperimento, perché sai, nei corridoi dei dipartimenti ci sono i teorici e gli sperimentali che vivono ufficio a un muro di distanza, diciamo, parlano, e allora c'è stato qualcuno che ha cercato di dire ma questo segnale probabilmente non è vero, si tratta di un background di questo o di quest'altro tipo. C'è stato anche chi ha fatto speculazioni, diciamo, non tanto simpatiche, ma questo succede, e direi che in generale è comunque una reazione sana, diciamo. La reazione a un'affermazione così rivoluzionaria deve essere di scetticismo, perché la scienza funziona così. Senti, questo potrebbe dimostrare effettivamente al pubblico come avviene un dibattito scientifico, cioè una volta viene pubblicata una ricerca, a quel punto si apre il dibattito scientifico. Quindi nella maggior parte dei casi, quando si sente magari o sulla televisione o nelle radio, oppure si legge sui giornali magari della meravigliosa scoperta, se la scoperta non è stata pubblicata, non è stata discussa dai fisici, non è una scoperta scientifica. No, assolutamente, infatti bisogna digerire un risultato, bisogna confermarlo, bisogna cercare di spiegarlo, ma questo può venire solo dopo che ci si è ragionato abbastanza a lungo. In generale comunque un risultato come questo va avvalorato da studi ulteriori fatti dallo stesso esperimento che l'ha prodotto, e questi sono in corso, ma ci vorrà parecchio tempo. Poi ricordiamoci che c'è di zero, c'è l'esperimento gemello, diciamo, di CDF al Tevatron, anche lui ha visto la stessa quantità di dati, anche lui ha rivelatori per muoni e quindi può fare la stessa analisi. Probabilmente non l'ha ancora fatta, ma sono sicuro che di zero non si lascerà scappare l'opportunità di smentire il suo fratello maggiore che è CDF, che è più anziano, diciamo, perché di zero è partito nel 92, facendo la stessa analisi e dicendo noi non vediamo niente. Questo è possibilissimo, io spero che questa analisi venga fatta molto presto da di zero, anche se è un'analisi estremamente complicata, perché bisogna prendere in considerazione, mettere le mani nel fango degli eventi più complicati che hanno questi muoni, che però non sono, contengono un sacco di processi di fondo, ecco. Quindi questa è una fase, diciamo, la conferma del risultato. Dopodiché, se venisse effettivamente confermato da di zero, allora saremo di fronte davvero, diciamo, il mio 1% diventerebbe un 50%, però non diventerebbe un 100%. Senti Tommaso, ti faccio un'ultima domanda che a questo punto esula dall'argomento di cui abbiamo parlato tutta la puntata. Tu fai fisica fondamentale, quindi fisica delle particelle, fisica teorica, fisica che normalmente non porta risultati immediati. Che cosa ne pensi del fatto che in Italia sono stati tagliati una marea di fondi negli ultimi anni? Non parliamo di questo governo, ma parliamo di tutti i governi che si sono succeduti. Che cosa pensi del fatto che la ricerca fondamentale, ma anche la ricerca normale, purtroppo ne penso molto male. Purtroppo non solo vengono tagliati i fondi, ma non si tiene conto di quel 3% di inflazione, per cui negli ultimi 7 anni i fondi all'INFN, che è l'istituto di ricerca che mi paga il salario, diciamo, e che paga la ricerca che si fa a CDF e negli altri esperimenti, sono stati tagliati di una certa percentuale, ma se fai anche il conto dell'inflazione è un 40% di meno. Ma in generale io penso che una società che vuole progredire deve investire nella ricerca anche fondamentale, quella che apparentemente non dà risultati domani, diciamo. Quindi questo è purtroppo un problema enorme che abbiamo da fronteggiare. Tommaso, ti chiedo di ricordare il tuo blog in modo tale da poterti visitare. Il mio blog è http://dorigo.wordpress.com. Lì ho descritto in dettaglio questa analisi e parlo giornalmente di argomenti di fisica delle particelle. Tommaso, grazie ancora per essere intervenuto in diretta a Caccia al Fotone. Io saluto tutti i nostri radioascoltatori. Grazie per essere stati all'ascolto di Caccia al Fotone. Continuate all'ascolto di Radio Città Fugico e, come al solito, buona scienza a tutti. Buona scienza anche a voi. Ciao Tommaso. Ciao.